Il pallone mi colpì, d'un tratto mi svegliai dai miei pensieri vuoti. L'uomo un gigante mi guardò, 2 metri contro il blu, una camicia a quadri. Sui 38 forse appesantito, ma con il tocco ancora buono. Un rimbalzo catturai e andammo avanti un po' senza dire una parola. Yarida, yaridaidaidaidada, yarida. E da quelle mani grandi ancora calde di una volta il pallone prese vita e volo su, e girando resto appeso in aria a tramontar col sole, poi riempì la rete scivolando giù. Si allungò nell'ombra scivolando giù. E dal fondo ripartì, 3 in fila ne azzeccò, poi ci fermammo un poco. Nel cortile odore di cena e di TV, prime luci della sera, con una finta si smarcò, io svelto gli passai e lui schiacciò di forza. Yarida, yaridaidaidaidada, yarida. Sotto il cerchio parve quasi di sentir le gradinate che cantavano e gridavano per lui, ed anch'io battei le mani per quell'ultimo canestro, mi sorrise ed in silenzio se ne andò, il pallone sotto il braccio, e se ne andò. Yare, yare, yare, yare, yare, yare, yare, yare, yare, yare.